Rassegna eventi. Buonasera a tutti e tutte, il microfono spento, si fa male. Ora meglio, ora ecco, meglio, ora molto meglio col telefono acceso. Sì, col telefono. Buonasera a tutti e a tutti. Soprattutto buonasera. A te, Briccovaldo, sì, soprattutto a te, buonasera. Sì. Ma mi senti? Sei sicuro che sono... Sì, abbiamo, è tutto cambiato. Abbiamo un nuovissimo computer che mi sta dicendo che fino ad oggi la sculavamo. Infatti sono sicuro che se ascoltate la scorsa puntata è tutto mega saturo. Sì, i volumi fanno un po' cagare. Ora però... ci sentiamo noi un po' più avvattati, ma... Va bene, questa è la trapunta, questa fiducia. È Radio Wombat, siamo nella tana. Fa freddo come da tradizione invernale del Wombat. Lo sapete, le tane del Wombat sono sicure, sono fresche, sono soprattutto ignifughe. Accoglienti, accoglienti. Questo quanto ci riportano quanto ci riportano dall'Australia, visto che sta diventando oramai di fama mondiale sulla bocca di tutti e tutte il fatto che il grande altruismo del Wombat nella propria tana ospita. Ora non si è capito bene se questa è una fake news oppure no. No, comunque no. Sicuramente non lo è. Vi ricordiamo i nostri contatti: postawombat@insiberia.net, la pagina Facebook, non la guardate per favore, guardate il blog, sì, che sì. È appunto wombat.blogs.org. Abbiamo Twitter, abbiamo Facebook e abbiamo la mail, ve l'ho detto, la frequenza naturalmente 13.59, ci potete ascoltare in quasi tutta l'area fiorentina, soprattutto a Firenze Nord, soprattutto fuori dalla città, perché come sappiamo, sapete, il Wombat è un animale che preferisce stare sottoterra e quindi sotto l'asfalto, insomma, così. Oh yes. Detto questo, l'apertura era il corteo. Che corteo? Corteo che c'è stato in seguito allo sgombero dell'XM24, di nuovo un altro sgombero dall'ex caserma Sani, che era stata occupata il 15 novembre dopo la lunga trattativa, lo sgombero di agosto. La lunga trattativa è andata male, era stata occupata la caserma Sani, una enorme ex caserma, sono 110.000 metri quadri, senza energia elettrica. E di proprietà, attenzione, non del comune, bensì di Cassa Depositi e Prestiti. È stato sgomberato malamente, era qualche giorno fa, era il 16 se non mi sbaglio. Naturalmente si sono incazzate tutti e tutte gli attivisti, le attiviste dell'XM, ma i cittadini, le cittadine, chi abita nella Bolognina, chi è attaccato e crede nell'importanza degli spazi sociali. E naturalmente anche noi, naturalmente, sì. Quindi grandissima solidarietà. La responsabilità è additata al PD, e forse qualcuno dovrebbe spiegargli che gli sgomberi prima delle elezioni forse dovrebbero proprio evitarli per le ripercussioni, però magari questo l'ha scritto il manifesto, quindi loro magari sono voci più credibili delle nostre, magari tendono ad ascoltare più loro che noi. Nel nostro piccolo ci limitiamo però a ripetere, esatto, quello che ci sembra. Sì, esattamente. Che pure la Lega ha capito, fra l'altro. Anche loro hanno preso per il culo il PD dicendo: raga, ma proprio ora, tra 10 minuti ci avete le elezioni, dovete combattere contro di noi, state proprio a farvela sotto e fate queste cose. Ebbene sì, fanno queste cose. Ebbene sì. Quindi Bologna, grande solidarietà a attivisti e attiviste di Bologna, che in pochi anni si sono visti, fra l'altro, svuotare la città dagli spazi occupati, sia abitativi che sociali. Fra l'altro c'è stata una sentenza per lo spazio che era stato sgomberato nel 2015, l'Artemisia, era uno spazio transfemminista, e sono stati assolti tutte delle persone che erano implicate, che erano state denunciate. Quindi questo ci fa un sacco piacere. Ma torniamo ad oggi e magari anche alla città di Firenze, caro buon Mario. Vuoi tornare qui da noi, immagino, per raccontare come sempre tutti i bellissimi eventi che nei nostri spazi e i nostri collettivi qua a Firenze organizzano, e che raccoglie il sito lapunta.org, che ormai tutti e tutte conoscono, direi, perché lo stanno usando, è utilizzato, tante realtà caricano gli eventi, e questo ci fa un sacco piacere, perché toglie un po' di lavoro a noi, che tutte le volte sennò dobbiamo andare a cercarli e buttarli su, e fa sì anche che, insomma, diventi una piattaforma realmente importante, realmente di uso quotidiano per la città di Firenze, ma non solo la città di Firenze. Attenzione, ultimamente sono comparsi alcuni eventi addirittura a Roma al Neuroz. Eh sì, è così, presentazione della Scarceranda, altre cose, quindi usciamo non solo dai confini della città, ma addirittura dai confini della regione. E questa settimana infatti ne vedremo anche di fuori da Firenze di eventi. Senti, ma io metterei una bella canzoncina che, se mi dai il permesso, dedico anche al nostro amico Cav Cav. E quando torniamo, vai, andiamo con la rassegna, vai, settimanale. Sperando che il mio computer si sia spiantato. Lo coccoliamo nel frattempo. Wabat. Eh sì, l'avete sentita, era la prima canzone della trapunta di oggi. Siamo il 20 di gennaio 2020, 21-2020. Bella data, fra l'altro, bella tonda. Rotonda, senti rotonda. Che musica metto adesso invece? Oh sì, andiamo con la rassegna, se non mi sbaglio. Questa è la... Eh sì, sì. È il sottofondo della rassegna dalla punta.org. In realtà non abbiamo nessuna ritualità, ma da oggi proviamoci. No, però l'abbiamo usata questa una sola volta, credo, vabbè. Come tutti sanno, questa è la musica da rassegna eventi. E sentitela, sono circa 7 minuti, non dobbiamo sforare. Buono, allora il buon Mario inizierà con la rassegna a partire da domani. Sì, ci vediamo domani sera, 21 gennaio, al cinema La Compagnia in via Cavour 50 per assistere all'anteprima assoluta mondiale mega esclusiva del film indipendente Go Dante Go Go Go, che abbiamo avuto il piacere di ospitare la scorsa settimana qui alla Trapunta con il regista e l'aiuto regista. Diretto da Alessio Nencioni, il trailer su YouTube, domani sera dalle 21 al cinema La Compagnia. Andiamo a mercoledì 22 gennaio dalle 21 presso lo studentato autogestito PDM 27 in via del Ponte di Mezzo a Firenze, è la proiezione di Star Wars, l'ascesa di Skywalker, naturalmente. È l'ultimo episodio, finalmente, accompagnato da tante birrette e anche da un po' una discussione a fine su quanto succede nel film. Naturalmente è sollecitato il rispetto degli occupanti e degli abitanti della corte, quindi non fate burdel. Mercoledì 22 gennaio inizia una nuova rassegna gastromusicale al Melograno. Infatti all'associazione Il Melograno in via Retina 513, questo mercoledì alle ore 21, cena vegana e a seguire Rich e Leo Reg Selection. Ci sentiamo la settimana prossima con la cumbia, sempre al Melograno. Andando a giovedì 23 gennaio in Piazza Dante a Campi Bisenzio, sotto e dentro il Consiglio Comunale di Campi Bisenzio, vi sarà un presidio perché vengono presentate le circa 300 firme, oltre 300 firme raccolte contro il centro commerciale che vogliono costruire a Campi, ennesima colata di cemento, e quindi siccome questa discussione viene affrontata in Consiglio Comunale è naturalmente necessaria una grande presenza fuori per far sentire che i cittadini ci sono, non si dimenticano, non dormono e che sono attivi. Quindi, ripeto, giovedì 23 alle ore 17 a Campi Bisenzio. Giovedì 23, sempre a Firenze alle 18, anzi, questa volta a Firenze alle 18, il ciclo Cattivi Maestri, quinto ciclo, inverno tribale, presso l'associazione Mariano Ferreira in via degli Alfani 13 Rosso. Dopo un altro autunno, i cattivi maestri preparano insieme alle cattive maestre i riti necessari per un inverno tribale. Cattivi Maestri è un progetto che intende aprire uno spazio di confronto e discussione, offrendo uno sguardo teorico e politico al lavoro di ricerca, partendo dai valori fondamentali antirazzismo, antisessismo ed antifascismo. Per questo quinto ciclo si inizia questo giovedì 23 gennaio con Silvano Cacciari, sociologo, che parlerà di critica delle scienze dell'economia politica. Venerdì 24 gennaio dalle 20 alle 23 presso il Circolo Alci del Galluzzo in via di San Francesco d'Assisi 1 abbiamo una raccolta fondi Florence for Iztapalapa, e si tratta fondamentalmente di una serata con una cena più concerto con il costo di 20 euro. La prenotazione obbligatoria al 324 555 5190. Avremo una pericena, Mathusalem Jazz Band, e a cena, durante la cena, gli Elixir Band. Naturalmente andrà tutto devoluto alla realizzazione del progetto Bio Puente Città del Messico a cura di USI e CIT Firenze. Les Amours Imaginaires, cinema per la mente, film atti, un cineforum con dibattito che si avvia con il primo ciclo all'Ateneo Libertario in Borgo Pinti 50 Rosso. La sessualità nella galassia umana. Questo è stato il tema. Venerdì 10 gennaio abbiamo visto Vizi privati e pubbliche virtù. Venerdì prossimo, il 24, invece, appunto, Les Amours Imaginaires. Ci sarà una pericena dalle 20 e a seguire cinema. Tutto a offerta, ingresso libero, a pericena a offerta. Un venerdì ricco di eventi perché sempre il 24 gennaio dalle 21.30 a mezzanotte e 30 presso la sala dell'ex Leopoldina in Piazza Tasso vi sarà la presentazione I boschi raccontano i cambiamenti climatici. Non è una presentazione, bensì il primo appuntamento della oramai nota scuola contadina promossa da Mondeggi e da Genuino Clandestino Firenze. Il primo appuntamento del ciclo, appunto, si parla di cambiamenti climatici e crisi ecologica. raccontata attraverso i boschi. Un raccolto per immagini e parole di alberi e boschi ad un anno dalla tempesta Vaia, a cura di Paolo Favero, educatrice ambientale, forestale, scrittrice e alpinista, presso la sala dell'ex Leopoldina in Piazza Tasso. E potrete trovare tutto il programma completo della scuola contadina sul blog di Mondeggi, mondeggibenecomune.noblogs.org/programma completo. Sabato 25 gennaio ci spostiamo invece fuori da Firenze, precisamente andiamo a Ponte Aema in via Chiantigiana 177, quando al circolo Arci l'Unione dalle 9.30 di mattina ci sarà una giornata dedicata ai beni comuni, si intitola Beni comuni tra beni privati e beni pubblici, appunto dalle 9.30 alle 17, promossa da Legambiente, Forum Beni Comuni Firenze, Comitato Amici di Mondeggi e altri. Il programma prevede dalle 9.30 il saluto, a seguire una tavola rotonda in cui si parlerà di cosa sono i beni comuni, introdotta da e moderata da Annalisa Pecoriello. Ci saranno tre interventi: beni comuni emergenti, quelli necessari e i beni comuni per l'amministrazione condivisa, e a seguire una serie di esperienze di beni comuni, Mondeggi e l'ex asilo Filangeri, il comitato beni comuni del quartiere 3, la comunità delle piagge, giardini onidiaci, eccetera eccetera. Un pomeriggio sempre ricco, ma magari non mi dilungo, anche perché ne parleremo più tardi. Approfondiremo, sì, con una persona del Forum dei Beni Comuni Firenze. Ricordiamo comunque questo sabato a Ponte Aema in via Chiantigiana. Sempre sabato 25 gennaio dalle 17 alle 20 presso il Circolo Arci La Loggetta in via Retina 301 abbiamo il secondo incontro della campagna Stop Pesticidi, campagna che è stata lanciata a dicembre, era il primo dicembre, no il 6 dicembre al Cinema Odeon, e questo è il secondo appuntamento per continuare a confrontarsi, informare e costruire insieme una campagna di sensibilizzazione e mobilizzazione contro i pesticidi e l'agroindustria. I pesticidi e fertilizzanti chimici alterano gli ecosistemi e le loro biodiversità, contaminano i terreni, l'aria e l'acqua ed hanno effetti devastanti sulla salute umana. Per questo, ripeto, sempre sabato 25 gennaio dalle 17 al Circolo Alci La Loggetta in via Aretina, non mancate. Siamo sempre a sabato, ma ci spostiamo all'occupazione di Via del Leone, in Via del Leone 60-62. Questo sabato dalle 19.30 vi aspettiamo numerosi per il nostro prossimo aperello. Anzi, primissimo, scusate, aperello, ci dicono gli compagni di Via del Leone. Ci sarà tanto cibo gustoso, offerta libera e tutto a prezzi popolari. Senza dimenticare l'immancabile trash che solo le vere dee greche sanno suonare. Dalle 21 DJ Onyx a 2000 e Hyper Trash by Artemide. Ci raccomandiamo di venire carichissimi e anzi, chi verrà vestito in full drag avrà diritto pure a una bevuta gratis. Tutto in preparazione al primo corteo queer studentesco della storia di Firenze. Il prossimo 31 gennaio e cazzo non mancheremo di seguirlo. E dai Dunque, sempre sabato 25 gennaio, una giornata, una serata veramente piena di eventi, cioè sarà Minor Threats al CSA Next Emerson dalle ore 22, naturalmente via di Bellagio 15, si tratta di un evento a cura del collettivo Nuovi Rumori, piccole colonne di ferro si radunano per darvi la tempra necessaria ad affrontare questo 2020 e quindi abbiamo quattro band, Nade, No Compromise, Grind, Hardcore Partisan da Viterbo, i Bells Beats, che è un gruppo fueled Grindbilly Milizia da Padova, poi abbiamo i Collapse, che già abbiamo sentito a Firenze di recente, appunto fiorentini, e poi abbiamo il Vuoto Impero post-hardcore iniziatico, sempre da Firenze, ripeto, via di Bellagio, Next Emerson, sabato 25 gennaio dalle 22. E chiudiamo questa rassegna settimanale domenica 26 spostandoci a Campi Bisenzio, a Villa Montalvo, dove come ogni anno torna l'estrazione dei premi della lotteria No Inch No Aeroporto. Durante la festa sarà possibile acquistare gli ultimi biglietti rimasti, ci saranno più di 50 premi messi in palio dalle attività del territorio, dalle associazioni solidali. E anche da Radio Wombat, fra l'altro. E attenzione. Anche da Radio Wombat. cosa mettiamo in palio, lo annunciamo, lo scopriremo. No, lo scopriremo, dai, avanti, dai, giusto, dai, dai, scopriamo. Un'occasione comunque per ritrovarsi, festeggiare le battaglie dell'anno passato e quelle di quest'anno che verranno. Dalle ore 16, una merenda genuina e festa per grandi e piccini con Rodolfo Bandiera Show, con giochi, musica, cantastorie, sculture di palloncini, trucca bimbi e tatuaggi. Dalle ore 18, estrazioni dei numeri e consegna premi e buoni spesa. Partecipiamo in tanti questa domenica a Villa Montalvo, dalle 16. Dai, la rassegna è finita. Gustatevi l'ultimo pezzo della, con la mic classico sottofondo. No, l'ho mandato indietro due volte, abbiamo suonato alla grande. Senti, ma io invece voglio mettere una canzone che te mi hai messo con la scaletta, che non so che cosa, che cos'è. Non mi assumo alcuna responsabilità. No? No. Stormy Six. E torniamo con? E torniamo con un approfondimento sull'evento dei beni comuni previsto per il 25 a Punta Ema. Sotto il bambù, al tempo che fu, c'era un pirata che ormai non c'è più. Gli avevano detto dov'era il tesoro, vicino alla pianta del pomodoro. Non trovò niente e il vecchio pirata non poté altro che far l'insalata. Sotto il bambù, al tempo che fu, c'era un mercante che ormai non c'è più. Vendeva tutto, non gli restò niente, nemmeno il cuore, nemmeno la mente. Un giorno ebbe fame, ma il pane era amaro, e si mangiò tutto quanto il denaro. Sotto il bambù, al tempo che fu, c'era un profeta che ormai non c'è più. Parlava del cielo, parlava del fuoco, noi lo ascoltammo, forse un po' poco. E larga la foglia, e stretta la via, dite la vostra che ho detto la mia. Sotto il bambù, sotto il bu, sotto il mio bambù. Sotto il bambù, sotto il bu, sotto il mio bambù. Sotto il bambù, sotto il bu, sotto il bu, sotto il mio bambù. Sotto il bambù, sotto il bambù, sotto il bu, sotto il bu, sotto il mio, sotto il mio bambù. Sotto il bambù, sotto il bambù, sotto il bu, sotto il bu, sotto il mio, sotto il mio bambù. Sotto il bambù, sotto il bambù, sotto il bu, sotto il bu, sotto il mio, sotto il mio bambù. Torniamo in diretta sulla Trapunta per approfondire, come d'abitudine, uno degli eventi che abbiamo trovato sulla piattaforma lapunta.org. Forse abbiamo un ospite, siamo un po'... ecco, lo stiamo attrezzando. Vai con le cuffie così ti senti. Questo è il microfono. E buonasera. Benvenuto. Questo è Roberto Checcucci da Forum dei Beni Comuni, Firenze, giusto? Giusto, giusto. Bene. Allora, noi abbiamo trovato questo evento sulla punta.org, non solo, ma noi ci rifacciamo a questa piattaforma perché l'abbiamo fatta noi e quindi ci garba usarla, usare questa. Comunque, si sta parlando dell'evento previsto per il 25 al circolo di Ponte Aema, che si intitola Beni Comuni tra beni privati e beni pubblici. Parli a nome del Forum Beni Comuni Firenze. Intanto, che cos'è il Forum Beni Comuni Firenze? Fa parte di una rete che è più ampia e abbraccia un po' tutta l'Italia, quindi magari se ci puoi spiegare un po' il percorso di questa realtà. Allora, intanto buonasera a tutti. Il Forum dei Beni Comuni di Firenze è una realtà del tutto informale che cerca di coordinare tutte le realtà fiorentine del territorio della Piana che cercano di sperimentare modalità di gestione, autogestione di spazi che sono adibiti a i più disparati usi. Questo forum nacque con l'occasione dell'approvazione del regolamento sulla gestione dei beni comuni del Comune di Firenze per una lettura critica dello stesso regolamento per proporre eventuali modifiche e integrazioni. C'è stata una parziale utilità perché una parte delle istanze proposte dal forum è stata accolta. Diciamo che il Forum dei Beni Comuni si inserisce in un movimento a livello nazionale che cerca di sviluppare questa modalità di gestione dei beni pubblici che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini. La partecipazione attiva è l'autodeterminazione di quello che si vuole e si deve fare in un determinato luogo. Esiste una rete nazionale, come dicevi te, che si riunisce generalmente ogni 6 mesi. Il prossimo appuntamento è il 1 e 2 febbraio a Milano. A Milano, sì, ce lo segniamo. Bene. Che affronta le tematiche che sono comuni a tutte queste realtà nazionali, anche se ogni di queste realtà ha una specificità territoriale ben evidenziabile. Dovuta fra l'altro alle caratteristiche del territorio Dovuta alle caratteristiche del territorio, dovuta soprattutto alle caratteristiche dell'amministrazione locale e dall'apertura maggiore o minore tale amministrazione ha su queste tematiche, che non sono di facile comprensione. Vengo quindi all'oggetto della giornata. Con temi del bene comune ultimamente si parla di tutto e del contrario di tutto. Ora si dice bene comune l'acqua, giustamente, si dice bene comune il Monte Bianco, l'autostrada, qualsiasi cosa. Questo in genera molta confusione e molte persone fanno il parallelismo sbagliatissimo che bene comune è un bene pubblico. Questo non è vero. Infatti il vostro titolo è Beni comuni tra beni privati e beni pubblici. Esatto. Questa era una delle domande che volevo farti. Perché ci sono queste tre definizioni in un titolo e sono ben distinte? Allora, la gestione dei beni è sancita dal codice civile solo in due modi, privato e pubblico. Il bene privato è un bene gestito da un'entità che lo gestisce per il proprio interesse. Il bene pubblico è un bene gestito dall'amministrazione, di qualsiasi livello essa sia, che lo dovrebbe gestire in favore della popolazione. Cioè l'utente finale dovrebbe essere il cittadino che dovrebbe fruire della gestione di un determinato bene. In ogni caso, sia il bene privato che il bene pubblico, la Costituzione nostra dice che devono avere utilità sociale. Ad esempio, la proprietà privata dovrebbe, perché non succede mai, cessare il titolo di proprietà privata quando cessa la sua utilità sociale. Quindi capisci bene che nel 99% delle proprietà private sì, ci dovrebbe essere un esproprio da parte dell'amministrazione pubblica. Ecco, ma quindi, e perché in questi anni siamo arrivati in particolare a dover trovare una definizione altra rispetto al binomio pubblico-privato e non è successo magari 20, 30, 40 anni fa? Allora, fino a 20, 30, 40 anni fa esisteva un modo di gestione di alcune pezzi di territorio o di pezzi di beni della nostra nazione che ora è caduto un po' in disgrazia, che era l'uso civico. In molti territori montani, lacustri, costieri, boschi, le comunità si prendevano cura di un bene, di un certo pezzo di territorio e ne sfruttavano in modo condiviso le risorse. Questo è una cosa che veniva fatta di comune accordo con il proprietario, che poteva essere sia pubblico che privato, però questo purtroppo è un modo di gestione che contrasta fortemente con le modalità di gestione della cosa pubblica attuale. Che è il libero mercato? Che è il libero mercato, ecco. Infatti questa cosa resiste solamente nelle zone veramente molto marginali, quindi alta montagna, zone di laguna dove non ci va nessuno se non i pescatori d'anguille, eccetera, eccetera. Ora, purtroppo il libero mercato, favorito anche dall'urbanistica, perché gli usi civici erano prima determinati sulle cartografie del regolamento urbanistico di un certo comune. Adesso, da metà anni 70 a adesso, l'addizione di destinazione urbanistica a uso civico è sparita, proprio perché la gestione ha preso tutta un'altra direzione. Bene, e questo purtroppo lo vediamo sia nel caso dei beni, però un po' in tutte, no? Il libero mercato ha veramente invaso qualsiasi ambito della nostra vita e quindi c'è sicuramente la necessità di porre un freno, di porre rimedio a questo disastro. E voi lo fate attraverso tutta una serie di strumenti, tra l'altro. Sì, allora, ritorno a bomba sulla giornata di sabato. Sì. Allora, questa confusione di interpretazione è anche spesso uno dei maggiori problemi che hanno le realtà che rivendicano l'uso del bene comune con le amministrazioni che gestiscono tale bene. Perché spesso gli stessi amministratori non sanno in realtà che cos'è un bene comune. Quindi la nostra idea è quella di fare un focus una volta per tutte, per la prima volta, ma probabilmente sarà la prima di una serie, sul il reale significato della parola bene comune. Che cos'è bene comune, come viene declinato al momento nel nostro territorio e anche nel resto d'Europa, e soprattutto cercare di capire insieme a degli esponenti dell'amministrazione pubblica che parteciperanno quali possono essere i metodi e gli strumenti di cui ci si può dotare per una gestione condivisa del bene comune senza dover scendere a rapporto conflittuale che spesso contraddistingue queste realtà. Sì. Che spesso, fra l'altro, è necessario per poi arrivare a una trattativa. Quindi, se non mi sbaglio, questo è anche un nodo che ancora non è stato sciolto, nel senso che i beni comuni al giorno d'oggi devono, in un certo senso, prima entrare in un uso collettivo per poi poter essere riconosciuti come per poi poter rilasciare una dichiarazione di intento, se non mi sbaglio che viene chiamata così, e poi magari riuscire a far sì che quel bene diventi un bene comune a tutti gli effetti. Sì, in realtà anche quel regolamento sui beni, la gestione dei beni comuni di cui ti parlavo prima, è un regolamento che ha molti difetti, nel senso che questo regolamento parte dal presupposto che il comune decide quali sono i beni che possono fregiarsi del titolo di bene comune. In realtà un bene diventa comune se c'è una popolazione che dal basso ne rivendica l'uso, e quindi questo gruppo, questa comunità di persone che magari si accorge che un certo bene è funzionale a un godimento o a una utilità sociale di quel tipo di comunità, richiede, fa istanza per avere questo riconoscimento. L'amministrazione nel 90% dei casi ha magari altre mille su questo bene e quindi il conflitto è inevitabile. L'esempio più lampante da noi è l'esempio della fattoria dei Mondeggi, certo, che è un bene della città metropolitana che fino a l'anno scorso era nel piano delle alienazioni, e la comunità di persone se ne sta prendendo cura da più di 6 anni, è entrata in conflitto naturalmente, perché non c'era altro modo per dimostrare al territorio che quel posto poteva essere usato in modo diverso dalla vendita e poteva diventare una ricchezza per tutti, sia dal punto di vista agricolo che economico che sociale. Sì, infatti poi, fra l'altro, nell'elenco dei beni alienabili c'è una sfilza, possiamo andare a vedere, no? Sui siti del comune e della regione, c'è proprio delle pagine dedicate in stile un po' agenzia immobiliare che snocciolano un elenco di beni pubblici che dovrebbero essere solo amministrati, no? Dalle amministrazioni, invece sono di fatto di proprietà. Per l'uso che ne viene fatto, sono proprietà dell'amministrazione e fanno quello che cazzo gli pare. Ma infatti, se mi permetti di interrompere, certo. Se uno fa una riflessione sul termine proprietà privata, di fatto il termine privato deriva da privare. Quindi una proprietà privata è una proprietà che viene tolta alla fruizione pubblica. L'amministrazione pubblica generalmente gestisce i beni pubblici in modo privatistico, quindi se li gestisce come se fosse lei l'unica capace e di decidere qual è il modo e i tempi con cui donarli, dall'alto alla popolazione. Sì, sì. Anche se poi a livello anche legislativo e costituzionale questa definizione viene in un certo senso smentita, cioè perché viene detto esattamente l'opposto, quello che abbiamo detto no, è che l'amministrazione deve amministrare. Sì, però purtroppo la legislazione italiana spesso collide pesantemente con la Costituzione italiana, anche se non dovrebbe essere. Allora, tornando alla giornata del 25, io ho visto che sul manifesto, sul volantino, ci sono insomma un elenco dei partecipanti, no? dei relatori, sì. Fra cui appunto il Forum dei Beni Comuni, la Rete Nazionale dei Beni Comuni. Abbiamo un comitato promotore per una legge di iniziativa popolare sui beni comuni. E questo immagino che sia il comitato che esce un po' dal referendum dell'acqua pubblica, giusto? Sì, dell'allora 2011-2012. Sì, in un certo senso sì. Allora, diciamo che mi fa piacere dire che questa giornata è stata organizzata dal Forum dei Beni Comuni di Firenze, dal Comitato Amici di Mondeggi Bene Comune e da Lega Ambiente Toscana, che ci ha dato un grande aiuto. La giornata è organizzata in 3 momenti particolari. Fondamentali. Il primo è un momento veramente didattico, nel senso che si verrà istituita una tavola rotonda con 3 esponenti che rappresentano i 3 modi con cui vengono declinati attualmente in Italia i beni comuni. Il bene comune soggetto a patto di collaborazione comunale, cioè detto brutalmente il giardinetto abbandonato che i cittadini vicini decidono di gestirlo, di pulirlo perché il comune non ce la fa. I beni, diciamo, che vengono detti necessari, cioè quei beni che sono dotazione della nazione e non sono ovviamente gestibili da una comunità di persone perché sono troppo grandi, vedi le bellezze naturali, le bellezze artistiche, le dotazioni infrastrutturali, che sono quelli oggetto di quella legge di iniziativa popolare di cui dicevi te prima. E poi quelli vengono detti i beni comuni emergenti, cioè i beni di cui parlavo prima, che emergono dalle istanze della popolazione perché la stessa pezzi di popolazione si rendono conto che un certo bene, materiale o immateriale, serve per accrescere il benessere sociale della comunità stessa. Quindi avere in confronto tra queste 3 realtà è fondamentale anche per capire la differenza tra questi 3 beni. Certo. Poi verranno presentate le realtà che esistono sul territorio. Quello fiorentino o toscano, mettiamolo così. Toscano, con l'eccezione dell'ex asilo Filangieri di Napoli, perché in primis perché vengono dei relatori a parlare appartenenti a questa realtà, e poi perché l'ex asilo Filangieri di Napoli è di fatto la prima realtà a livello nazionale che ha avuto un riconoscimento dall'amministrazione pubblica come bene comune attraverso l'approvazione di una delibera comunale dedicata. Benissimo. Quindi è un'esperienza fondamentale. Sì, fra l'altro abbiamo avuto già modo di parlare ai microfoni di Radio Wombat di questi temi. Abbiamo avuto Micciarelli che qualche mese fa, forse è già passato un annetto, era a Mondeggi, e quindi c'è un'intervista registrata su Radio Contado di circa un anno fa con Giuseppe Micciarelli, che è uno, fra l'altro, un esponente sì dell'asilo Filangieri, ma anche insomma uno dei principali dei punti di riferimento per quanto riguarda i beni comuni. Ci sarà poi, ho visto nel pomeriggio, addirittura un confronto con le istituzioni, Sì, la seconda parte della giornata sarà appunto quella che noi ci auguriamo sia la più concreta, anche se sarà concreta anche l'altra, perché il nostro scopo, come dicevo prima, è quello di far conoscere e di regalare qualche dubbio. Però il confronto tra diciamo, i giuristi che si occupano del bene comune e gli amministratori locali può essere fondamentale per far capire agli uni e agli altri quali possono essere gli strumenti condivisi per poter diciamo, sviluppare finalmente una volta per tutte questi beni comuni, ripeto, mi ripeto, ma mi piace ridirlo, senza dover necessariamente entrare in conflitto con l'amministrazione. Esatto. Quindi allora intanto rimandiamo, rilanciamo l'evento del 25 dalle ore 9 presso il Circolo di Fontema, proprio Sì, accanto al Museo di Gino Bartali. esatto. Il Forum dei Beni Comuni ha un sito, ha anche una pagina Facebook, Ah, se sì? ce le vuoi ricordare. Non... Non te li ricordi? Bravo, c'è. Vediamo se le ritrovo io che ce l'avevo aperto. Allora, no, e poi eccolo Perdonami, qua, ma... forumbenicomunifi.wixsite.com. Questo è il sito del Forum dei Beni Comuni. L'ultima cosa che volevo un minimo approfondire era riguardo appunto alla quarta assemblea dei beni comuni emergenti, che come dicevi prima, si svolgerà a Milano, a metà fra il Reflow, se non mi sbaglio, e il Macao, insomma, in un paio di spazi, l'1 e 2 febbraio. E ci sono quattro temi da affrontare, fondamentalmente, che sono già stati affrontati nelle precedenti. L'ultima era a Venezia a settembre, cioè, eravamo insieme, fra l'altro. Bellissimo, è stata una bellissima esperienza. E questo giusto per far capire in che direzione si sta sviluppando la questione e diciamo in che direzione sta andando a ricercare le posizioni giuste questo percorso. Perché avremo quattro tavoli in quell'occasione: un tavolo giuridico, un tavolo urbanistico, un tavolo economico e un tavolo sugli strumenti di acquisto collettivo dei beni comuni. Questi sono più o meno gli ambiti toccati dalla questione dei beni comuni, giusto? Esatto, sì, è importante i due tavoli economico e sistemi di acquisto collettivo, perché sono tematiche che vengono tendenzialmente sopravanzate da quelli giuridici e urbanistici, perché quelli giuridici e urbanistici, pardon, sono i più urgenti, perché come dicevo prima, spesso la questione giuridica è pressante per, diciamo, le comunità che si occupano di questo aspetto proprio per i motivi di conflitto col comune. In realtà gli aspetti economici sono altrettanto importanti e possono essere responsabili del successo o non successo di un bene comune. Quando si parla di aspetti economici, si parla non di un autofinanziamento, ma di un autoreddito. Si parla di come è possibile far conciliare una economia di autoreddito, ma anche di confronto con il mercato in cui necessariamente siamo immersi, senza perdere i nostri principi fondanti. È una sfida abbastanza E quindi complicata. fondamentalmente, cioè io ho visto un po' che anche la creazione di circuiti alternativi al libero mercato che attualmente vige in quasi tutto il mondo. Sì, a Milano soprattutto c'è l'esperienza di Rimaflo, che è diciamo il capofila, è un'esperienza di una fabbrica occupata, che è il capofila di una rete che si chiama Fuori Mercato, e che è una rete che si occupa di distribuire in tutta Italia prodotti che derivano da appunto esperienze o di agricoltura contadina o comunque esperienze di produzioni dal basso, al di fuori del mercato del largo consumo, della grande distribuzione, purtroppo ci attanaglia. C'è un punto, fra l'altro, un punto vendita anche a Firenze C'è un punto di vendita fuori anche a mercato, Firenze. sì. Sì, esatto. E infine l'acquisto collettivo dei beni comuni è una via già tentata, se non mi sbaglio, proprio a Venezia, ne parlavamo quando siamo stati a settembre, per quanto riguarda l'isola di Poveglia. Sì, in realtà, allora, sì, l'isola di Poveglia è un'esperienza molto interessante e molto particolare, nel senso che i nostri compagni veneziani hanno avuto coraggio e anche la bravura di riuscire a drenare in pochissimo tempo una quantità di soldi sufficiente per poter proporre una offerta di acquisto al demanio che è il proprietario di quest'isola. In realtà, volendo parlare da purista, il bene comune dovrebbe restare sempre e comunque pubblico. Il pubblico dovrebbe garantire come si dice, l'hardware, cioè il bene, e poi la parte, il cosa fare, come gestirlo, quindi il software dovrebbe essere garantito dalla comunità che lo gestisce. Quindi, però è anche vero che l'esperienza insegna in tutta Italia, in tutta Europa, per arrivare alla gestione di un bene comune si prendono tante strade, dalla concessione, patto di collaborazione, usufrutto, qualche volta acquisto. Quindi in questo momento è importante arrivare al risultato, poi per i sofismi c'è tempo, c'è tempo di rimetterci le mani. Bene, hai altre cose da aggiungere? No, vi ringrazio dello spazio e spero che sabato ci siate. Beh, io penso proprio che ci sarò. Anche perché mi sa che dovrai intervenire. Sì. Dovrò intervenire, sì, tra l'altro appunto gli spazi. Ah, lo sai una cosa, te la volevo dire. Allora, io sono andato a riguardare proprio sul vostro blog, e c'è la parte iniziale, si recita tutte le cose dal basso, le realtà dal basso che parteciparono inizialmente. Come mai ci sono gli angeli del bello? No comment. Ecco, no, perché... Perché, cioè, questa qua è veramente, veramente assurdo, perché noi abbiamo intervistato più volte, abbiamo letto, e gli angeli del bello sono uno dei punti centrali del trattato di Wolf Bukowski, che è stato presentato un anno fa circa in Polveriera, che parlava proprio di quelle esperienze simil dal basso, e cioè fanno finta di essere dal basso. In verità ci sono delle direttive ben precise, degli stimoli molto grossi da parte dell'amministrazione, dall'alto. Quindi come... avete mandati fuori a pedate? Allora, preferirei non risponderti, però ti do una suggestione, nel senso che, allora, questo forum dei beni comuni si riunisce quando gli va, fondamentalmente allo sportello Ecoequo, che come tu sai è uno spazio del comune. All'interno, all'inizio, c'erano veramente di tutto di più, perché si raggruppavano 40 realtà cittadine associative. Oltre agli Angeli del Bello, ti posso dire che c'erano anche le associazioni che gestivano la spiaggia dell'Arno di San Nicolò, sì, che col bene comune hanno ben poco a che vedere. Veramente. Poi, diciamo, se formalmente sono rimasti, diciamo che poi di fatto il forum è attivamente portato avanti da poche persone, come sempre succede. E io personalmente gli Angeli del Bello non l'ho mai visti. Ah, ok. Quindi insomma, è solo un'etichetta che c'è lì. Va buono, va bene, perfetto. Allora mi ha chiarito questo dubbio. Ti lasciamo andare. Grazie. Tranquillità. A te, Roberto. Buona allora, serata. A sabato. Ciao. Avete sentito Roberto Checcucci riguardo all'incontro di sabato? Siete tutti e tutte caldamente invitate e invitati. Noi ci saremo, speriamo anche di riuscire a registrare qualche contributo. E intanto vi potete gustare una buona canzone da DJ Mario. Wombat! Quello che tengo da dire mi parla di quello che tengo da fare, tutto quello che tengo da fare, dire quello che tengo da dire, quello che tengo da dire e da fare mi parla di quello che devo imparare, che devo cercare, che devo scoprire, che devo capire, ti devo parlare. Ce l'hai dentro e quando chiama, chiama, vocazione rivoluzionaria, sta nell'aria quando chiama, chiama, vocazione rivoluzionaria. Quando tutto ti sembra più grande di quanto tu possa nemmeno pensare, quando 30 anni ho passato una vita a cercare di dire e trovare parole, quando il silenzio ti sembra suonare perfetto per quello che tieni da offrire, allora parole mature ti cadono in bocca, la penna si muove da sola e... Ce l'hai dentro e quando chiama, chiama, vocazione rivoluzionaria, sta nell'aria quando chiama, chiama, vocazione rivoluzionaria. Nave senza rotta nella tempesta, e smuove soli e le lune, baci il colore del cuore e poi negli occhi il sorriso e dopo il fondo una via d'uscita e poi negli occhi il sorriso e dopo il fondo una via d'uscita. Se ancora non lo sai, presto lo saprai. Non si può tornare indietro, non si torna mai. Quello che sei stato è diventato ciò che sei. E ciò che sei diventerà quello che poi sarai. Ancora non lo sai, ma presto lo saprai. Non si può tornare indietro, non si torna mai. I conti col passato già li hai fatti o li farai, sai. Non si può tornare indietro, non si torna mai. Tutto quello che tengo da dire mi parla di quello che tengo da fare. Tutto quello che tengo da fare, dire quello che tengo da dire. Quello che tengo da dire e da fare mi porta lontano. Non posso restare ancorato al passato. È arrivato il momento di lasciare andare, di ricominciare. Pronti per attraversare il fiume che sa di sale come il pane altrui. Bocche tremanti per il freddo, pugni chiusi del pianto muro. E poi negli occhi il sorriso e dopo il fondo una via d'uscita. E poi negli occhi il sorriso e dopo il fondo una via d'uscita. No, non puoi capire, proverò a spiegare mo. Quando quello che ho da dire è libero di andare, provo solo a far sentire il gusto ed il colore. No, di fronte allo stupore ti puoi solo. C'è dai dentro e quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria sta nell'aria quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria c'è dai dentro e quando chiama, chiama. Vocazione rivoluzionaria sta nell'aria quando chiama, chiama. Bene, cambiamo argomento, direi, in modo piuttosto brutale. Eh sì. Anche sottofondo. Anche sottofondo abbiamo. Perché? Perché? Perché? Perché? L'altro giorno mi è capitata sotto mano una notizia che per me, personalmente, è sensazionale per motivi che forse Mario conosce, ma che forse qualche ascoltatore o ascoltatrice potrebbe conoscere. E per esattezza era un post di un tale Pippo Guarnieri, che è un po' uno dei capisaldi della lotta No Mos in Sicilia. Pippo Guarnieri l'abbiamo avuto più e più volte a Firenze. L'ultima volta che l'ho incontrato era la vetrina anarchica. È un autore di Sicilia Libertaria. Ha scritto fra l'altro diversi testi, di cui uno è stato presentato a Firenze in Polveriera, che è un libro, si chiama L'anarchia è spiegata a mia figlia, fra l'altro una cosa molto carina, consigliabile. Appunto lui si occupa della lotta a No Mos oramai da 10 anni e è stato raggiunto da una condanna per dei fatti, per un trek organizzato, insomma, era il 2016, vi furono molte denunce, 24 persone denunciate con varie capi di imputazione, poi sentiremo, ce lo spiegherà. Fondamentalmente Pippo Guarnieri non ha fatto altro che mostrarsi alla Digos, che riprendeva i volti di tutti. Lui ha fatto, anziché mostrare il volto, ha mostrato il culo. E quindi questa cosa non è che abbia fatto scalpore, ma non è passata inosservata alla magistratura. E quindi non solo è stato denunciato, ma fra i 24 è l'unico che è stato condannato a più di 6 mesi. Io ho pensato bene di raggiungerlo con una telefonata per almeno, insomma, farci spiegare un po' che cosa sta succedendo e come andrà avanti la lotta per i MUOS. Ricordiamo che i MUOS sono degli attrezzi implicati sempre di più, anzi sono ormai delle infrastrutture fondamentali per la guerra globale. Sono dei macchinari attraverso i quali riescono ce ne sono 4 a giro per il mondo, statunitensi, uno in Sicilia e altri 3 in altri 3 continenti, riescono a governare e a guidare i droni a migliaia e decine di migliaia di chilometri di distanza. Quindi grandissimo sostegno alla lotta a No Mos, solidarietà a Pippo Guarnieri e anche alle altre persone denunciate. Si sa, anche se non sono state condannate, le denunce fanno sempre male, o almeno diciamo Sì, almeno al portafogli. Ecco, esatto, di... almeno al portafogli. E quindi dai, Pippo Guarnieri, attivista No Muos. Sentiamo. Siamo al telefono con Pippo Guarnieri, attivista No Muos, che pochi giorni fa ha ricevuto una condanna per dei fatti avvenuti nel 2016. Ci puoi raccontare di cosa si tratta? Allora, è tutto molto semplice, perché nel 2016 il Movimento No Muos ha organizzato un trekking nel bosco della Sughereta, dove sorge la base americana del Muos e anche quella delle 46 antenne di comunicazione militari, e in quella circostanza, sin dal concentramento dei partecipanti a questo trekking, c'era un continuo filmare tutti i presenti da parte della polizia scientifica, una azione, diciamo, molto provocatoria, costante, verso anche i ragazzi minorenni presenti. Addirittura, quando è arrivato un pullman di attivisti da Catania, hanno imposto che scendessero tutti dalla porta anteriore per poterli filmare ad uno, quindi una situazione che a un certo punto ha fatto sì che alcuni compagni, fra cui io, non ero io solo, ma comunque alcuni compagni, ci rivolgessimo a questi operatori della polizia, mostrandogli il sedere e dicendo: riprendi questo anziché riprendere le persone, no? E, diciamo, la cosa poi si è chiusa lì, e c'è stato questo trekking. Durante il trekking sono avvenuti anche un po' di episodi, diciamo, tentativi di simbolici, comunque di tagliare le reti della base, alcune cose, per cui sono seguite poi 24 denunce per questi fatti della violenza, resistenza, complicità con queste azioni verso le reti della base militare, eccetera, fra cui io ho avuto anche la denuncia per due denunce, una civile per oltraggio al pudore e la seconda penale, legata quindi a tutte le denunce più gravi del trekking, per oltraggio ai poliziotti, no? Quindi, pubblico, eccetera, e quindi ai pubblici ufficiali. E dopo la denuncia civile c'era una multa di 5.000 euro, sono stato assolto, mentre questa qui penale si è trascinata, come tutto il processo, che si è concluso giovedì scorso con l'assoluzione di tutti per tutti i reati contestati, eccetto il mio caso, e ho avuto una condanna a 6 mesi di carcere più pagamento delle spese processuali, pena per adesso sospesa. Quindi questo è quello che è accaduto. Ora io posso dare una lettura, diciamo, a parte che per noi, come ho scritto in una mia dichiarazione a caldo, anche questi gesti rappresentano un modo gioioso e spensierato di mostrare come noi si viva questa lotta con gioia, con allegria, eccetera, ma era anche un modo per reagire contro questa provocazione infame di scadatura costante di tutti i presenti, che è una cosa che ormai avviene da anni in maniera scientifica, no? Ma soprattutto il lato politico è che si cerca, con tutta una serie di atti repressivi, per cui questo è uno degli ultimi, abbiamo avuto fogli di via ai primi dell'anno per altri compagni, abbiamo Turi Vaccaro che è in carcere già da un anno e mezzo a Palermo perché ha fatto appunto lui delle azioni completamente non violente nella base americana. Insomma, tutte queste cose sono dei modi, dei tentativi per cercare di terrorizzare le persone, l'opinione pubblica, e per cercare di intimorire l'attivismo di questa lotta, che ormai ha superato i 10 anni di vita, si dimostra una lotta abbastanza tenace, con i suoi alti e bassi, come tutte le lotte che ci sono in giro, però che comunque resiste, continua, e allora ecco che si colpiscono un po' i compagni, e anche quelli, come nel mio caso, un po' più grandi, un po' più punti di riferimento, per cercare di mandare dei segnali a tutto il movimento. Ovviamente io penso, come il caso di Nicoletta e gli altri compagni, Luca, Imbalsuso, eccetera, che in realtà tutte queste azioni non facciano altro che riempirci di ulteriore consapevolezza, di rabbia e di tenacia, di sprono per continuare a lottare contro queste ingiustizie. quindi questo è quello che posso gli dire. Gli effetti. Bene, ok, quindi avete intenzione di continuare le mobilitazioni, immagino quali sono i prossimi passi della lotta. Già abbiamo, già abbiamo indetto una manifestazione nazionale per l'11 aprile, che è il sabato di Pasqua, quindi approfitto anche di questo collegamento, di cui tra l'altro vi ringrazio, per lanciare anche a livello fiorentino, toscano, questa scadenza importante della, dell'11 aprile, che è una scadenza che è contro il MUS, ma è anche contro i venti di guerra, perché bisogna sempre sottolineare che lo strumento MUS, che è uno strumento di gestione planetaria delle guerre americane, che ha una colonna portante in Sicilia, le altre tre sparse negli altri continenti, diciamo, è al centro di questi ultimi episodi di guerra, della crisi in Iraq, in Medio Oriente, come lo è la base di Sigonella, dove tra l'altro in questi giorni sono arrivati nuovi droni, e quindi diciamo questa nostra iniziativa tende a cercare di porre al centro dell'attenzione dei movimenti in Italia, anche i movimenti che si occupano di tematiche differenti, comunque il tema della guerra, il tema della militarizzazione, del militarismo, delle spese militari, eccetera. Quindi ti abbiamo detto 11 aprile a Roma? Sì, a Niscemi. A Niscemi. No, proprio a Niscemi. Okay. A Niscemi, sì. Molto bene. Sicilia. Molto bene, avete un contatto dove casomai ascoltatori e ascoltatrici possono chiedere, domandare, informarsi? Sì, c'è il nostro sito www.nomus.info, dove c'è sono tutti gli aggiornamenti continui. Bene, benissimo, ti ringraziamo allora a Pippo e a prestissimo. Anche io vi ringrazio, ciao. Ciao. Ancora un saluto a Pippo Guarnieri, voi non potete vederlo, ma qui nella tana del Wombat siamo sovrastati da una grande bandiera No MUS. E ce la godiamo, rivendichiamo. E ce la rivendichiamo anche le manifestazioni col culo di fuori. Fanculo, noi vogliamo essere allegri, vogliamo sdrammatizzare, vogliamo allentare la tensione, e questo è un modo che a noi, a me personalmente piace, fra l'altro. Io te ricordare. Forse, esatto, la ricordiamo questa cosa. Sentiti libero, io sono molto contento se vuoi sentirti libero. Perché sì, fra l'altro andremo a parlare fra poco di quanto è successo a Prato sabato scorso, e Prato che era stato teatro già nei mesi precedenti di un controcorteo in occasione del corteo di Forza Nuova, no? E fra i vari contestatori ai fasci, quella manica di 140 coglionazzi scappati di casa, c'era una persona che a un certo punto ha fatto la mossa di mostrare il culo al corteo che in quel momento per l'appunto transitava da un punto non raggiungibile neanche attraverso il lancio di oggetti, e quindi da un luogo safe, si è calato i pantaloni e ha mostrato a tutta la folla che inferocita voleva mangiarselo. Poi la Digos l'ha fermato, gli ha chiesto i documenti, ma niente è successo, almeno fino adesso. E poi portiamo nel cuore comunque questa persona a cui auguriamo tutto il meglio, esatto. Tutto il meglio. Dai, come del resto auguriamo il meglio a Pippo Guarnieri, che ha ben ragione a dire che è un modo anche giocoso di vendicarsi una protesta, e vaffanculo al MUS, anche a culo in faccia agli sbirri. Esatto, allora cosa facciamo, caro Mario? Perché noi siamo in un punto, siamo nel punto di grande indecisione, provando a collegare con i compagni del SICOBAS, che sono però in assemblea. Stiamo cercando di collegarci prima della fine della trasmissione per parlare di cosa è successo sabato scorso appunto al corteo a Prato, indetto a seguito delle multe commutate agli scioperanti della tintoria superlativa. Ma siccome c'è un attimo questa incertezza, la mia proposta è quella di mandare un altro contributo audio che un compagno poco fa ci ha mandato. Sì, tra l'altro a proposito dei MUOS, non MUOS, andiamo a parlare proprio di una zona, si può dire, di guerra, o perlomeno lo è stata nell'arco degli ultimi... diciamo in modo particolare negli ultimi 17 anni, con una grossa influenza americana, con insomma la contesa fra due superpotenze, e quindi l'utilizzo dei droni e delle armi, come si può dire, a lungo raggio, sì, insomma, manovrate da lontano, è veramente fondamentale, anzi si può dire che è una delle pedine più importanti delle guerre moderne, e quindi stiamo parlando dell'Iraq, stiamo parlando di quello che sta succedendo in particolare a Baghdad, ma in verità un po' in tutto il territorio iracheno. Territorio conteso fra le forze americane e le forze iraniane, dove però la popolazione non sembra voler sottomettersi né all'uno né all'altro. Il governo iracheno fa quel che fa, e cioè reprime in modo molto fermo. Ci sono già stati centinaia di morti per le rivolte. Fondamentalmente quello che sembra venire fuori dalle azioni del popolo iracheno è una grande voglia di autodeterminazione. La stampa internazionale naturalmente tace su tutto questo, non solo la stampa internazionale ma un po' tutti i mezzi di stampa. Le notizie poche, sparute, arrivano attraverso i social network, ma noi abbiamo un compagno, come diceva il buon Mario, che non si ferma lì e va sempre a cercare il pelo nell'uovo. Questo compagno lo conoscete, ha già passato la sua voce su Wombat, e quindi magari ce l'ascoltiamo. Il buon Omlo Olmo, che dir si voglia. Un saluto a tutte e tutti. Intervengo brevemente cercando, dato appunto l'urgenza, di fare una piccola parentesi su quello che sta succedendo in Iraq e in Libano. Proprio perché è il momento di parlarne prima che sia troppo tardi. Come forse saprete, sono in atto delle proteste dall'autunno scorso in entrambi i paesi, proteste giovanili che chiedono un cambio di governo e di costituzione in entrambi i paesi, che sono guidati dalle di fatto milizie sciite affiliate vicine all'Iran. In questa cosa comporta la strumentalizzazione da parte dell'Occidente e della NATO di quello che sta succedendo, e il tentativo di utilizzare a fini tattici queste proteste. Questa cosa è una cosa che è stata sempre fatta, ma è una cosa che non sta più riuscendo, proprio perché ormai il popolo iracheno sa, in particolare, sa bene cosa succede e come le potenze internazionali usano l'escalation di violenze per poter entrare in quelle che sono le loro decisioni. Quindi abbiamo visto in questi giorni, a seguito di questa falsa escalation fra Iraq e Iran, il tentativo di sfruttare reciprocamente le varie... il paese. Da quel momento è scede e come le potenze internazionali usano l'escalation di violenze per poter entrare in quelle che sono le loro decisioni. Quindi abbiamo visto in questi giorni, a seguito di questa falsa escalation fra Iraq e Iran, il tentativo di sfruttare reciprocamente le varie posizioni, ma le proteste si sono sempre tenute distanti. Venerdì scorso sono scesi in piazza per dire che non sono il campo di battaglia di questi dell'Iran o degli USA, e non stanno né con uno né con l'altro. Da quel momento è sceso completamente il silenzio stampa e non si ha una notizia se non quelle che passano attraverso Twitter, attraverso gli account di chi è là. In questo fine settimana in particolare è salita la tensione ulteriormente. Ci sono stati, sappiamo che già sono quasi 600 le vittime della repressione, più migliaia di feriti. Durante le manifestazioni di questi giorni ancora sono stati uccisi ragazzi, e ma questo ha un effetto esattamente opposto, nel senso che quello che stiamo vedendo anche in queste ore, mentre appunto si sentono i colpi di arma da fuoco, le persone escono di casa e si aggiungono alle mobilitazioni. Per adesso appunto sono state bloccate tutte le entrate alle città, sono state bloccate le autostrade e ci sono appunto forti scontri con le forze dell'ordine, ma tendenzialmente i manifestanti stanno cercando di mantenere le posizioni e bloccare dei nodi vitali, diciamo paralizzare il paese e obbligare il governo a scendere a un compromesso, a dimettersi e a iniziare a avviare questo nuovo percorso verso la Costituzione. Noi non possiamo aspettare che i media arrivino in ritardo con le informazioni, ci vengono a raccontare che è in corso una guerra civile e che è necessario inviare contingenti militari, che peraltro sono già presenti sul territorio. In questo momento è veramente in corso un massacro di un popolo che chiede libertà, e alla faccia di tutte quelle che sono le retoriche di questa Europa e di questi stati, si sta andando a preparare quello che è il prossimo ISIS, la prossima periodo di buio, di violenza per queste popolazioni. Una situazione non altrettanto tragica ma estremamente tesa è quella del Libano, dove ci sono proteste anche lì da quest'autunno, iniziate con le tasse su WhatsApp eccetera, di cui erano arrivate informazioni, insomma proteste contro il caro vita, e che si sono unite a una serie di mobilitazioni precedenti nel tentativo di cacciare quello che è anche lì un governo legato a Hezbollah e legato appunto a una divisione settaria del potere statale, corrotto, a una disoccupazione estremamente alta eccetera. Insomma anche qui i giovani e gli studenti si sono mobilitati per pretendere un futuro diverso, e anche qui è in corso una repressione violenta, per quanto nella situazione libanese sia limitato l'uso delle armi da fuoco sui manifestanti. Il governo ha rifiutato di prendere delle posizioni questo fine settimana, perciò i manifestanti hanno circondato il Parlamento. Durante la notte la polizia li ha attaccati varie volte, quindi si sono mossi, sono state attaccate a quel punto delle banche, e ora sono in corso manifestazioni, sono state bloccate le autostrade. Anche qui quella che è l'azione dei manifestanti è il tentativo di agire sul metabolismo del paese, non di giocare allo stesso gioco del nemico, non di provocare un'escalation di violenze e una guerra armata, e così concedere, diciamo, giustificare un invio di un attacco militare propriamente detto da parte del governo o da parte dei vari attori geopolitici. Questo semplicemente è molto, molto, in maniera molto stringata, quello che sta succedendo. Ho cercato di riportarvelo un attimo, perché oggi, se guardiamo i giornali, si parla solo di Libia, si parla di eventi che sono legati alla spartizione del gas del Mediterraneo e alla decisione di come risolvere, a chi di mettere d'accordo due assassini che sono stati scelti dal potere costituito per gestire il massacro in Libia. Allora, questi trattati vanno bene, va bene cercare un stop delle armi, ma non è niente su cui realmente ci sia intenzione di agire, e non è niente di urgente, mentre nella situazione irachena e libanese, se non ci sarà un intervento, peraltro richiesto da parte dei manifestanti dell'ONU, la situazione rischia di degenerare, rischia di diventare il prossimo bagno di sangue. Quindi io invito tutte e tutti a fare girare le notizie, per quel poco che si riesce a trovare, a parlarne e a rompere questo muro di silenzio. Ciao. Mi sembrava sfinito il buon Olmo. Sì, sembrava. Ciao. Non ne può più di riportare notizie che dovrebbero riportare altri, tipo noi. Vabbè, ok, non solo noi, dai. E comunque ci mettiamo un po' del nostro, dai, riproponendolo qua alla trapunta. Assolutamente, no, non solo ci mettiamo del nostro, ma anche di più, perché non ci sono fonti di informazioni se non quelle sparute sui social, come appunto ci raccontava Olmo. E ci scusiamo con gli ascoltatori e le ascoltatrici, la diretta salta, non capiamo perché, ci sono problemi tecnici, ma ormai ci siamo affezionati. E come no. Ma se ci riascoltate in podcast sarà tutto filante, bellissimo e non salterà assolutamente niente. Ci scusiamo anche perché avevamo annunciato e provato a fare questa intervista in diretta con i compagni dei Psicobas, che però si stanno trattenendo per questa assemblea e ci stanno scrivendo in questo momento. Cerchiamo di recuperare lunedì prossimo o anche probabilmente durante la settimana in altre trasmissioni qui su Radio Wombat. Lo sai, guarda, mi dispiace veramente tanto. Perché c'era un po' la tentazione, non lo so. Cambio base. Vai. Senti cosa metto. C'era un po' la tentazione. Intanto si parla del corteo di sabato. I Psicobas hanno indetto questo corteo in solidarietà degli operai, soprattutto ci sono stati 21 denunce, 21 multe. Che hanno toccato 19 operai che protestavano della titoria superlativa e due studentesse solidali che erano al presidio. Era luglio del 2019 quando questo succedeva. Naturalmente non possiamo minimamente dubitare sul perché questi operai hanno deciso di scioperare, visto che erano mesi che non ricevevano gli stipendi. Sette mesi senza stipendi, totalmente al nero, una fraccata di ore al giorno. 12 ore di lavoro, 7 giorni alla settimana. Assurdo, assurdo, va bene. E sono scesi in strada, sono arrivate le denunce, le multe. Per chi lotta contro la nuova forma di caporalato, caporalato, niente, 4.000 euro a testa per delle persone sfruttate. Il sindaco di Prato già allora disse, compagno Biffoni già allora disse però si blocca le strade e qui bisogna trafficare a Prato, non si può. Già allora ha pensato bene di rincarare la dose questo sabato e se l'è presa in particolare con non solo con i Psicobas, ai quali dice voi non avete rotto il cazzo, siete antidemocratici, noi tuteliamo i lavoratori ma facendo per Benino. Mm-mm. Vabbè, questo non lo so, mi sembrano cioè proprio che i commercianti e gli imprenditori di Prato gli abbiano proprio ficcato in bocca queste parole. Ma non solo. Attenzione, se la prende anche con la polizia di Stato. Perché? Perché la polizia di Stato non ha fatto il suo lavoro. Lui dice l'ordine pubblico è una cosa che deve fare la polizia di Stato. E perché non l'hanno fatto? Hanno lasciato i nostri poveri vigili urbani da soli a fronteggiare un esercito di 1000. C'è chi dice 1000, c'è chi dice 2000. Ma fonti attendibili dicono 2000. Manifestanti. Beh, ma poi non si capisce nemmeno bene queste dichiarazioni di Biffoni, da dove le tiri fuori, perché sembra, da quello che si legge testualmente, tra l'altro la fonte è l'ufficio stampa stesso del comune di Prato, sembra che sia stata la polizia municipale a sgomberare la piazza a discapito della polizia, che nulla avrebbe fatto in quel momento in realtà di tensione. Non c'era nessuna tensione, era una manifestazione che si era conclusa pacificamente, è stata una carica, anzi più cariche della polizia, assolutamente ingiustificate di fronte a manifestanti a volto scoperto e mani in alto. La polizia municipale, francamente, in quel contesto esatto non si è vista. Sì, polizia, quindi Psicobas, polizia, questore e prefetto. Queste quattro sono i nemici di Biffoni di questo fine settimana. Sì, sono anche tutti i nostri, tutti tranne... Sì. E fra l'altro c'era un pre in tutto questo, perché la manifestazione era stata indetta già da molto tempo. Sì. E fra l'altro non andava contro appunto la lavanderia o contro, cioè era nello specifico, allargava lo sguardo al decreto Salvini, quindi aveva ricevuto un'adesione pressoché nazionale con tantissime realtà, ma anche tantissime presenti, sigle, tantissime sigle, anche tantissimi singoli. L'Arci Prato era presente in piazza, aveva aderito alla numerosi alla piattaforma. Sindacati, tutti quelli di base erano presenti assieme a realtà studentesche e non solo. Esatto. Il percorso che era già stato precedentemente approvato era stato poi ridotto, se non mi sbaglio, un giorno prima, due giorni prima, a un percorso di 600 metri, evitando le vie del centro, le vie del commercio. Invece poi il corteo è riuscito a svicolare letteralmente e a girare il blocco delle forze di polizia per arrivare sotto il comune e sulle scale del comune, si può dire. Quindi si è conclusa con una vittoria totale da parte del corteo, dei manifestanti, e con una sconfitta veramente clamorosa delle istituzioni e delle sue forze dell'ordine, che hanno provocato durante tutto il corteo, non ricevendo fra l'altro risposta, salvo poi caricare la piazza nel momento in cui davvero era il corteo finito, erano rimaste un paio di centinaia di manifestanti. Ci sono comunque molti video e comunque di questo sicuramente avremo modo ancora di parlare. Abbiamo seguito gli eventi nei giorni scorsi e cerchiamo di seguire, insomma, al meglio quello che si muove di antagonista oltre che di sociale in senso lato qua in questa trasmissione. Sì, infatti rimandiamo al più tardi, a lunedì prossimo, sulle frequenze di Radio Wombat, altrimenti probabilmente anche in altre trasmissioni verrà trattato. Fra l'altro questo corteo ne avevamo già parlato in trasmissioni quali La Stampa Rassegnata, che va in onda il martedì, insomma i Sicobas è una realtà molto vicina. E quindi noi purtroppo non ci abbiamo parlato, ma vabbè, vi possiamo rimandare a Coccoli al Silicio, che va in onda alle 21.30, al Buon Ginox con il supporto della Club di Firenze, con sempre una quantità di informazioni realmente incredibili per un, come si può dire, un cialtrone della tecnologia come me. Alcune cose io veramente, solo i titoli mi spaventano. O ti affascinano? Mi affascinano anche, certo. Senti, io direi di chiudere con una canzoncina che, a proposito di lotte di cui non si parla, gli Intillimani che cantano De Gregori. Senti qua cosa ti faccio sentire. Senti, io... No, non parliamo d'altro. No, no. Sì, andiamo, dai. Non abbiamo mai parlato di resistenze. Mio buon Mario. A lunedì prossimo, allora. Sì, lasciamo qua questo sospeso. Lasciamo questo sospeso. A lunedì. Dai, da retta ai Wombat. Buonanotte, buonanotte, moletina. ghiaia. Gli uccelli nel vento non si fanno mai male, hanno ali più grandi di me. E dall'alba al tramonto sono soli nel sole. Buonanotte questa notte è per te. Buonanotte questa notte è per te. Rassegna eventi. Ai due arcieri che hanno fatto centro è concesso di restare. Tutti gli altri gentiluomini possono levarsi dai coglioni.